inizia chiacchiere da me poi cercando dei collegamenti. C'è un programma, si segue così, insomma, no? Io non ho potuto seguire tutto a parte delle lezioni, per cui ho fatto delle scelte. Mi sono trovata a preparare degli esami, appunto, dopo io poi non si strecca il piede. Se mi lascia la filosofia, questo l'abbiamo capito. Alle superiori io ho portato filosofia come prima materia, l'esame fondamentale. Pensa che io canto, l'ho capito all'Università di Bologna, sì, cioè, come ha spiegato fuori. No, per magistrale. Magistrale, matematica. Sì. E siccome mi avevano detto che devo fare matematica, io ho scelto di fare un'altra cosa, ovviamente, perché basta che uno ti dica di fare una cosa che più esattamente a 20 anni ne fai un altro. Poi a qualità. No, però, insomma... Però il principio di sostituzione è il peggiore. Quando... No, è molto bella però. Sì, nel senso che però a questo momento cioè, è già difficile rimettere in discussione tutto una serie di... che è una lettura diversa. No, poi ci sono anche, voglio dire, una, se si è già, come dire, dentro qualche professione, cioè, ci sono corsi meglio, insomma, una continuazione, un approfondimento che uno già fa, magari nella vita, no? E magari lo fa perché gli piace, insomma, quello che fa, quindi fai proprio un'altra cosa che non ha niente a che fare, eccetera. No, questo qua di filosofia della morale a me piaceva, però ero più curiosa dall'altro punto di mille vista. Mille volte non tornerai indietro, mille volte in testa. Mi piace. No, io non tornerai indietro, però mi dispiace perché mi piacerebbe anche seguirlo. Sì, io ti dicevo se fa una conferenza, sì. Era sei. L'importante è che non vogliate il corso di riorganizzazione. No, adesso. No. Ormai. Proprio adesso che siamo vicini. C'è avuto un incremento come studenti medi del 500-600% rispetto all'inizio. Quindi una di quelle cose proprio che. Quando è che facciamo l'esame? Dunque, gli appelli, io li ho già comunicati, però naturalmente sia ufficioso. Che non vengono pubblicati, perché sapete con le aule eccetera, può essere. Voi pensate di darlo a gennaio, esatto? Sì. Nei primi appelli? Sì. Non è obbligatorio, eh? C'è gennaio, febbraio, c'è giugno. Tu puoi solo frequentare. Ma c'è un appello anche a dicembre o no? No, dicembre no, ci sono gennaio. A dicembre quanti ne vogliamo dare? Siamo pazzi? Cambia. Gli appelli ci sono. Dato che siamo caldi. Detto che siamo caldi, vediamo tutti e tre a dicembre. Io ho segnato qualcosa qua, chissà se sono questi, devo vedere le email. Ve li posso dire giovedì? Adesso vi l'hanno data, poi non è quella. Perché ho segnato due giorni, però dovrebbero essere, però non ho scritto sopra che cosa. Ah no, eccoli qua, era dietro. Perché io uso il pezzo dell'anno dopo che è all'inizio, non sono di quelli che vengono in giro con due agende. Quindi può essere che fossero due esami. No. Allora, erano quelle giornate male anche. Allora. Il giorno 11 gennaio alle 9. Bellissimo orario. È troppo presto? No, appunto perché faccio la notte in bianco così vengo direttamente e dormo a pomeriggio. La notte in bianco per preparare l'esame. Sì. Allora, e l'altro appello è il 1 febbraio. 11 gennaio e 1 febbraio. Sempre alle 9? Sempre alle 9, sì. Aula ICISA, qualcosa del genere. ICISA, allora di là. Io la vedrò il giorno dell'esame. E questa qua sul piano. Ma siamo solo noi tagli o anche no? Anche altri tutti gli altri studenti? Non so, poi naturalmente mi dovete scrivere secondo le procedure. Siamo di scrivere il verbale. Sì. Esatto, là facciamo un colloquio, vediamo che pare se tu bastante. Sì, no, perché pensando che a classi di 200 persone. No, questo è un esame solo per voi. Ah, ok, no, pensavo che lo abbinasse a qualche altra sociologia, no. Allora ci troviamo i 200 studenti del corso, fatta la maratona. Io un anno ho dovuto erogare la sociologia applicata alle scienze motorie per la corte di studenti del terzo anno, e siccome c'era stato un cambio al piano didattico, era stato spostato al secondo, contemporaneamente per gli studenti del secondo. E avevo tipo iscritti per dare l'esame quasi 500 studenti, non iscritti tutti assieme. E anche in quel caso, cioè stesso esame, ho fatto giorni diversi. Gli esami sono, è difficile gestire, per voi no, io vedo gli esami con voi, li vedo come dire, un bel tramonto di fronte a una spiaggia rispetto alle altre cose militaristiche che devo fare con A, B, C, D, tutte le copie incrociate per evitare che cose in quel Facciamo l'11 gennaio? Sì, sì. L'11 gennaio? Sì, ma segnati le date però. Sì. Io... proviamo l'anno 11 di gennaio. Non proviamo, proviamo di là. Andiamo. Calcolo le probabilità, se che hai 50 palline bianche, 50 palline nere, butti dentro la vani, se peschi quella bianca l'hai passata, se peschi quella nera. Ma io lo rimanderei sempre l'esame, perché il giorno prima direi non si può rimandare l'esame, quindi non è che mi cambio dallo prima o dopo, lo rimanderei sempre io, per come sono fatta. E questo è la filosofia. Filosofia, sociologia, queste cose così. Ciao, dopo vedere. Intanto vediamo se. Iniziamo a studiare, se troviamo qualche punto, facciamo un incontro da prof. Facciamo... Allora, ieri ci siamo fermati qua, vero? Sì. Ok, tutto chiaro, abbiamo detto ieri, sono le notti in bianco, hanno portato domande, dubbi, ma necessità. Sono aperta lentamente. No, bene, allora, andiamo avanti. A questo punto, insomma, riassumo un attimo qui il discorso. Abbiamo praticamente identificato, abbiamo capito questo. Se vogliamo studiare una certa relazione, posso togliere questa frase di reflessione, non capisco neanche cosa sia. Allora, se abbiamo... Il dominio del potere. Il dominio del potere, capisco che l'impressione era giusta. Allora, macht, forza, potere. Allora, ieri abbiamo visto come per studiare una relazione senza perderne la multidimensionalità, cioè le quattro dimensioni, dobbiamo cercare teoricamente un indicatore, un legame indicatore per ciascuna delle dimensioni relazionali, quindi la dimensione delle risorse, la dimensione degli scopi, la dimensione dell'integrazione, la dimensione del valore. E abbiamo visto quali potevano essere degli esempi di legami, di indicatori di queste dimensioni. Il passaggio di risorse, l'esercizio di potere, le gerarchie, eccetera, per C, le risorse per A, i legami affettivi, amicali, per I, e per L invece la condivisione di appartenenze. Okay? E sostanzialmente, diciamo, potrebbe essere utile avere un legame indicatore per ciascuna di queste dimensioni. Bene, una volta che noi, diciamo, fossimo nelle condizioni di avere uno o più legami indicatori per ciascuna di queste dimensioni, come possiamo, una volta raccolte le informazioni, aggregarle tra di loro? Quali sono i tipi diversi di dati che possiamo raccogliere? Allora, i tipi di dati che ci troviamo, quindi lo scenario informativo, prevede sostanzialmente questi tre tipi di dati. Dati su ogni legame indicatore, quindi studiate il legame di amicizia, e avete i dati su questo legame, per ciascuno quanti sono gli amici, qual è il livello di centralità della rete, di centralizzazione della rete, il livello di densità, tutte le cose che vedremo una volta concluso questo argomento, no? Quindi le misure, cioè, per quel legame, ok? Cioè qualità metriche e indici sintetici che dipenderanno ovviamente dalle caratteristiche di base dei legami indicatori. Quali sono le caratteristiche di base dei legami? Sono sicuro che lo sa. Le caratteristiche di base dei legami. La prima, quella di base in assoluto, è la presenza-assenza. La categoria shakespeariana, potremmo dire, quella dell'essere o non essere. Poi quali c'è? Negativo, positivo. Il segno, bravissimo. Poi la direzione. Poi la densità. La densità è una caratteristica della rete. Ok? Dell'intero rete. Il peso. Voleva dire il peso. Benissimo. Il peso. Densità è minimamente il numerino. Sì, ho capito. Il peso, benissimo. Ok, il quarto. E poi c'è la molteplicità, cioè più legami contemporaneamente, diciamo così. Quindi, questa è la prima cosa che possiamo fare. Torno un attimo indietro, le informazioni per ogni singolo legame, indicatore questo, eccetera, ok? Poi, dati sintetici intradimensionali. Cosa vuol dire intradimensionali? All'interno di ciascuna dimensione. Quali sono le dimensioni? La dimensione A, G, I, L. Cioè, se avete tre legami per I, il legame d'amicizia, il legame di coinvolgimento emotivo nei confronti dell'altro, il legame di frequentazione nel tempo libero, ne avete tre, sintetizzate i valori di questi tre legami. Se il soggetto A, il soggetto N1, ha una centralità pari a X per il primo legame, Y per il secondo e Z per il terzo, calcolate la media fra queste tre grandezze. Questo può essere un esempio di come sintetizzarle, d'accordo? Quindi all'interno di ogni dimensione. E poi abbiamo dati sintetici interdimensionali, cioè tra le diverse dimensioni, per A, per C, per I e per L. Poniamo che vogliate prendere sul serio questa impostazione, cioè usarla nella ricerca, mettete un legame indicatore per ciascuna delle quattro dimensioni e poi sintetizzate i valori. Quindi ciascuno di questi soggetti avrà una media complessiva di centralità sui quattro legami che utilizziamo. Passaggio di risorse, legame di potere, un legame per la presenza di affettività, un legame di amicizia, eccetera, e l'altro per la leadership, e avete una bella media. Ok? Che cosa vuol dire che questi dati interdimensionali sono ricavabili o meno dalla combinazione di indici sintetici? Se avete un legame per ogni dimensione, fate la media tra questi quattro. Se ne avete tre per la prima dimensione, quattro per la seconda dimensione, due per la terza, tre oppure uno per la quarta, è chiaro che non potete fare una media fra tutti questi valori. Perché? Faccio un esempio, no? Faccio un esempio molto semplice di questo, però è... Allora, prima dimensione, seconda dimensione, terza dimensione, quarta dimensione. Per la prima utilizzate quattro legami, ok? Diversi. Per la seconda ne utilizzate due. Per la terza ne utilizzate tre. Per l'ultima ne utilizzate uno. Ok? Allora, se voi fate una media del valore di centralità che ha un soggetto su questi quattro legami, su questi eccetera, che cosa succede? Se fate una media, quanti sono quindi i legami? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 10. Se voi sommate il valore e poi dividete per 10, cioè calcolate la media aritmetica, perché non va bene? Perché se voi fate questo e il numero di legami è diverso per ciascuna di queste dimensioni, voi fate sì che le dimensioni che hanno più legami incidono di più sulla media, ok? Perché qui ne abbiamo 4, qua ne abbiamo 1, sulla media che cosa peserà di più? La A o la L? La A, perché hai 4 valori, qui ne hai soltanto 1. Allora, se abbiamo la stessa quantità di indicatori, oppure uno soltanto, eccetera, allora basta fare la sintesi o meno della combinazione. Se invece così non è, conviene fare prima un indice sintetico tra queste, un indice sintetico tra questi, un indice sintetico tra questi, questo resta così perché è l'unico indicatore, a quel punto fate la media su quattro valori. Ok, ed è una media ponderata rispetto alla quantità di indici. Ok? Ipotizzando che per ogni valore valga come gli altri, che non ci sia ipotizzando un peso diverso fra i valori. Ottima precisazione, la ringrazio. Naturalmente le misure che però dovete sintetizzare devono essere semanticamente simili tra di loro, cioè d'accordo? Quindi questo vuol dire che se rispettate questo valore, anche le scale che utilizzate, se queste sono misure normalizzate di pari tra 0 e 1, e nelle altre non è così, allora dovete utilizzare delle tecniche di standardizzazione, no? Per rendere confrontabili misure che altrimenti non lo sarebbero, no? Poi comunque quando vedremo gli indici, se volete possiamo, se lo ritenete utile, possiamo approfondire il tema della standardizzazione, quali tecniche utilizzare, com'è. Quello che volevo aggiungere è questo: questa faccenda dei pesi molte volte si vede nel commento dei dati statistici, ma anche a livello giornalistico, no? Ed è molto importante invece osservare, perché per esempio voi avete una certa grandezza, una grandezza X, e la incrociate con qualcosa, per esempio avete i maschi e le femmine, d'accordo? Dopodiché uno fa la percentuale, no? E vedi che questa grandezza A raggiunge come media 8 per i maschi, 5 per le femmine, e la media complessiva è 9. Ok? Per esempio il livello di gradimento per un politico da 1 a 10. No, alle femmine vale, ai maschi piace 8, mediamente alle femmine 5. La media complessiva, il totale, è 9. Ok? Uno commenta questo e dice, però caspita, vedi, c'è una differenza molto, molto importante. Allora il commento, dove si dovrebbe fare il commento? Si dovrebbe fare confrontando i maschi con le femmine. Questo è un commento corretto. Molto spesso sapete cosa succede? Che si fa il commento confrontando i singoli, le singole modalità con il totale. Ok? Dice, ma vedi, i maschi sono quasi vicino alla media del totale, le femmine sono molto sotto rispetto al totale. Allora si fa il commento confrontando ciascuna classe col totale dei soggetti. Questo perché è scorretto? È scorretto perché molto spesso è diversa la quantità di casi sui quali sono calcolati questi valori. Cioè se voi avete complessivamente 100 soggetti, 100 soggetti intervistati, e avete, diciamo una cosa, sì, perché non può essere 9. Esatto, e avete 80 soggetti qua e 20 qua, è chiaro che questo valore tendenzialmente sarà più simile al totale, perché ci sono 80 casi su 100 che lo determinano, d'accordo? E quindi è sempre più corretto fare una comparazione tra i casi. Voglio dire che questo problema si pone al di là della standardizzazione, della comparazione, anche nel commento dei dati, è proprio una faccenda secondo me di logica della costruzione del dato. Diciamo che quindi alla fine potremmo costruire degli indici interdimensionali che tengano in considerazione tutti questi valori, ok? Oppure anche soltanto alcuni. Per esempio vogliamo sintetizzare soltanto la A e la C, o la A e la I, o la A e la L. Ricordate che secondo l'impostazione relazionale noi troviamo qui un asse che è chiamato asse strutturale del legame, della relazione, l'asse del preligo, e qui l'asse del refero. Quindi per esempio si potrebbe sintetizzare gli indicatori C ed L, poi gli indicatori A e I, e quindi avreste una sintesi parziale, sintetizzate A e I e poi G ed L, e così via delle varie combinazioni. Okay? Alla fine comunque, se ne abbiamo per tutte e quattro le dimensioni e li sintetizziamo tutti, abbiamo un valore complessivo sintetico che ci dà l'idea dell'intera relazione, a quel punto distinta dai singoli legami. Ok? Ecco, allora veniamo adesso al tema della differenza tra personal e full network analysis. Poi le misure che vedremo non cambiano, D'accordo? Però questa è una differenza importante e ho aggiunto diciamo, una specificità nel programma per questo tipo di differenza, perché quando ho accettato di tenere questo corso e ho iniziato a costituire una specifica mia competenza applicativa rispetto all'ambito che interessa a voi, ho scoperto che un importante lavoro di diciamo, inquadramento dell'analisi strutturale, dell'analisi delle reti nell'ambito della gestione dell'emergenza, che naturalmente ho infilato nel programma d'esame e vedremo subito dopo il testo di Chiesi, parte da questa differenza, cioè fonda l'applicazione in ambito d'emergenza, quindi con misure particolari che poi vedremo eccetera, a partire da questa differenza di impostazione metodologica. E quindi è bene che la vediamo e anche che la comprendiamo, ma ripeto, non è affatto complesso. Allora, che cos'è? Quando è che si pratica personal network analysis? Che cos'è la personal o ego o egocentric per network analysis? È la branca della social network analysis che si occupa di ricostruire le reti identificando degli attori focali e prendendoli uno alla volta e sostanzialmente ricostruendo la rete che c'è intorno a questi attori. Noi identifichiamo una certa quantità di ego, i soggetti dei quali vogliamo ricostruire le reti, e per ciascuno di questi ricostruiamo la rete dei legami che hanno attorno, preoccupandoci anche di raccogliere informazioni sulla presenza eventuale di legami tra gli alter, nel descritto alter, che i soggetti hanno tra di loro. Se io volessi studiare per esempio le vostre relazioni personali utilizzando questa impostazione, chiederei a ciascuno di voi di farmi degli elenchi di nomi di soggetti con i quali ha un certo tipo di legame e poi di genererei una lista di nomi e poi gli chiederei di dirmi se fra questi soggetti che voi indicate, parenti, amici, conoscenti, cioè ci sono dei legami dello stesso tipo. E ricostruirei per ciascuno di voi una rete di questo tipo. Quindi avrei quattro ego, siete voi, e attorno a ciascuno di voi i suoi alter. Ok? Ci possono essere delle situazioni di ricerca in cui questa è l'unica alternativa che vi trovate di fronte. Quando? Ogni volta che dovete organizzare tra di loro soggetti che hanno legami importanti per quello che voi dovete fare al di là delle loro interazioni dirette, cioè delle relazioni tra di loro, ok? Se invece sono in grado di, e veniamo alla seconda branca della social network analysis, la whole o full network analysis, di chiudere un insieme di persone, mi interessano solo le relazioni tra di loro, allora avrò tanti ego quante sono le persone tra le quali studio le relazioni e guarderò solo le relazioni tra loro. Torniamo all'esempio che ho fatto rispetto a voi. Voglio studiare i vostri legami, solo i legami tra voi quattro. Non mi interessano gli altri legami che avete. Quindi a ciascuno di voi farò delle domande sui legami che ha con gli altri tre. Ok? Un gruppo completo di persone. Ok? Per esempio, se dovete organizzare un ufficio, uno staff organizzativo, amministrativo, eccetera, e vi interessano i legami tra di loro, perché immaginate che i legami tra loro possano produrre qualche effetto sul livello di produttività, di benessere dei singoli dipendenti. Questo può essere utile soprattutto a chi ha incarichi dirigenziali di carattere amministrativo e deve organizzare le persone che lavorano assieme. Questa è la strategia. Ok, le relazioni tra loro, quindi qui non ha, nel caso precedente abbiamo un ego e gli altri, voi e i vostri legami personali esterni rispetto a qui dentro. Qui invece abbiamo tanti ego e noi interroghiamo direttamente questi ego circa i legami che hanno tra di loro. Ora, rispetto al tipo di domande, come porle, quali sono le opzioni, poi vedremo, ci sono delle differenze. Che sono delle differenze apparentemente soltanto tecniche, invece devono essere considerate come l'esito di una dimensione di carattere, di una riflessione di carattere teorico. Per esempio, se avete un ufficio da organizzare con del personale burocratico, amministrativo, eccetera, e vi interessa capire quali sono i legami tra di loro, conviene presentarvi la lista dei colleghi oppure pretendere che perlomeno ricordi il nome dei suoi colleghi senza doverli scegliere all'interno della lista? Questa differente impostazione nella raccolta dei dati, siamo sempre dentro la full network analysis, apparentemente sembra rilevante, in realtà vedremo che la risposta, la prima risposta o l'altra, sono più utili per studiare tipi di legami diversi. Ok? Allora avete capito qual è la differenza tra personal e full network analysis? Ok? Questa differenza poi sarà utilizzata da Contractor e altri, cioè gli autori del saggio di impostazione che vedremo, per inquadrare i tipi di network analysis in ambito di emergenza. E naturalmente però se l'avete capita voi siete a posto, perché poi vedremo soltanto qual è l'applicazione in ambito di emergenza dopo aver imparato le tecniche. Quello che ci divide da questo ambito applicativo è imparare le misure che dopo questi usano, ok? Ma una non esclude l'altra? No, non è detto che l'una esclude l'altra. No, ci danno due informazioni diverse. Per esempio, tu potresti usarle entrambe? Tutte e due, certo. Se voi pensate che il comportamento, ottima domanda, che il comportamento di questi attori sia influenzato, e vi interessa questo tipo di influenza, non solo dalle relazioni che hanno tra loro, ma anche dalle relazioni che hanno all'esterno, allora potete usare tutte e due. Naturalmente non contemporaneamente, d'accordo? Perché capire, prendere in considerazione questo full network, aggiungendo anche gli altri di ciascuno dei soggetti, significa creare un problema in tutte le misure che si utilizzano, se li utilizziamo, se li prendiamo in analisi tutti assieme contemporaneamente, perché è chiaro che noi non sappiamo se esistono dei legami tra gli upper Diego 9 e gli upper Diego 6, d'accordo? Però si possono usare in tempi diversi, cioè momenti diversi, anche raccogliendo i dati contemporaneamente, ma prevedendo delle strade diverse per l'elaborazione dei dati. Questo senz'altro. Per esempio, mi viene in mente che in una fase iniziale di ricognizione potrebbe essere utile utilizzare, ecco, e poi vedremo, perché negli studi che dopo io ho aggiunto a questo saggio di inquadramento generale, nel primo si usa la personal network analysis e nel secondo la full network analysis, così in ambito di emergenza. Vediamo due esempi applicativi. Per esempio, in una fase iniziale della gestione di un servizio potrebbe essere utile, o forse l'unica strada, la personal. Dopo due mesi che questi soggetti condividono degli spazi, delle attività, eccetera, si può utilizzare la full per vedere se sono nati dei legami, se ci sono delle leadership all'interno, come queste favoriscono il servizio oppure no, eccetera. Bene, allora qui io provo a mettere in fila alcune questioni che si devono affrontare per la definizione del dato relazionale. Quindi diciamo che se ci si fida di questa impostazione, l'unico problema che ho nel presentarla è che l'ho che è venuta in mente a me, diciamo, se preferisco dire che si presenta più facilmente le cose del dato, quelle che ho proposto io, però secondo me qui dentro ci sono i sei passi che si devono fare per fare una ricerca. Dopodiché qua dentro si infilano le tecniche, le analisi, eccetera, eccetera, d'accordo? Però secondo me quando ci si avvicina ad una realtà da studiare, naturalmente questi sei punti si basano su tutta una serie di riferimenti poi metodologici che trovate all'interno del testo, Non è che mi sia svegliato la mattina di domenica e così folgorato dalla sociologia notturna, diciamo così, e hanno detto fammi scrivere avete pensato alla scrittura automatica, in scrittura automatica mi sono messo a scrivere queste robe, no? E è l'esito che poi trovate nel testo spiegato bene, no? E si poggia su altri autori. Primo punto, definizione dell'oggetto di ricerca come relazione sociale. Allora l'aiuto non è una caratteristica degli individui che aiutano o di quelli che sono aiutati, l'aiuto non è una caratteristica delle macrostrutture, l'aiuto è una relazione sociale. Quindi definire l'aiuto, per esempio, come relazione sociale. L'aiuto deve avere delle dimensioni economiche, delle dimensioni politiche, nel senso che collegate allo scopo, allo scenario, alla modalità dell'oggetto da raggiungere, una dimensione integrativa, una dimensione valoriale. Ok? Ed è il secondo passaggio, definizione delle dimensioni relazionali e identificazione dei legami indicatori. Applichiamo AGI al concetto di aiuto, ricordate l'esempio della relazione di cura in famiglia, AGIL, e per ciascuna di queste scegliamo uno o più legami indicatori da utilizzare per studiare le relazioni tra gli individui. A questo punto definiamo, terzo passaggio, l'ambito sociale di indagine. Che cosa vogliamo studiare? Vogliamo studiare un territorio colpito da un certo evento catastrofico, quindi un campione rappresentativo della popolazione? Vogliamo studiare un gruppo di soggetti che fanno parte di una minoranza? Vogliamo studiare soggetti che sono seguiti da qualche associazione o cooperativa sociale in modo particolare? Scegliamo l'ambito di indagine che vogliamo utilizzare per capire quali sono i legami di aiuto tra queste persone. Quarta questione, definizione della strategia o del mix di strategie più efficaci per la raccolta dei dati. Siamo già in grado di raccogliere i dati su queste persone? Sarebbe meglio prima passare attraverso un mediatore? Sarebbe meglio prima identificare un testimone significativo per raccogliere delle informazioni? Quali sono le strategie più efficaci? Una parte qualitativa all'inizio e poi insomma gestiamo dei questionari, li osserviamo in interazione. Ecco, questo è un passaggio che segue i passaggi precedenti. Poi, definizione delle qualità da indagare per ciascuno dei legami indicatori. Quali sono le qualità? Se vogliamo studiare il peso, ci interessano quindi misure di forza, la direzione, basta la presenza assenza. Come vedremo, per esempio, per fare uno studio dei sottogruppi è molto più comodo limitarsi a registrare la presenza e assenza dei legami. Se mettiamo dentro anche la direzione, poi dobbiamo fare delle scelte successive. Allora, se abbiamo in mente di fare uno studio dei sottogruppi, un buon legame indicatore che sia registrato solo a livello di presenza-assenza può essere utile, d'accordo? E infine, sesta questione, la definizione della strategia più adeguata per rilevare la presenza tra i soggetti di legami, ovvero per rilevare la presenza di TIE. Per esempio, sottoponiamo degli elenchi, vincoliamo la quantità di indicazioni, indicami le tre persone più importanti per te, oppure indicami tutte le persone importanti per te. Queste scelte, apparentemente soltanto tecniche, in realtà hanno un enorme valore di carattere teorico. Ok? Per esempio, se voi costringete a scegliere i legami più importanti, è chiaro che se lo fate in un contesto dove i soggetti si conoscono poco, non ottenete delle indicazioni. Conviene invece avere un elenco per favorire il ricordo, l'analisi di ciascuno di questi. Se dovete favorire la nascita di legami, se avete un contesto molto coeso, è l'unica strada per non avere dei soggetti indifferenziati, perché tutti tenderanno a indicarsi reciprocamente. Però è chiaro che questa scelta, che è di carattere teorico, in un certo senso vincola anche il tipo di misure che voi potete utilizzare, perché il fatto che siano al massimo tre determina anche dei range di variabilità tra alcuni indicatori. Quindi si tratta di una serie di scelte che si fanno rispetto allo scopo conoscitivo che si intende raggiungere. Bene, ecco, questo è un esempio di raccolta di dati e di sistematizzazioni per la Personal Network Analysis. Questo lo troviamo. Tutto trovate nel testo, qui disegno la pagina. Da bravi studiosi l'abbiamo studiato attentamente. L'avete già studiato? Magari. Allora, ancora il giorno di Natale. Sì, in effetti questo mio testo ha anche dei colori natalizi, vedete, non è un caso, la scritta in rosso è quel rosso caldo proprio sotto l'albero di Natale, ma proprio nel senso di sotto l'albero potrebbe stare bene. Il regalo di Natale per il Allora, Personal Network, prima di guardare queste matrici che vedete qua, guardate quelle sigle che ho scritto tra parentesi in alto: NG, NIP, NIR. Per che cosa stanno quelle sigle che ho scritto qui? La prima sta per Name Generator. Che cos'è un Name Generator? Siamo nell'ambito della Personal Network Analysis. Quindi io ho quattro soggetti, poniamoli quattro, e voglio capire che legami questi soggetti hanno intorno a loro. Ok? Perché si chiama Name Generator? Perché ho la necessità di creare una lista di nomi, cioè di alter collegati a questi soggetti. Come? Aspetta che lo trovo. Come vedete, ci sono, trovate nel testo, tipi diversi di Name Generator. Per esempio, soggetti con i quali hanno un particolare tipo di legame. Allora, dimmi chi sono i parenti che ti aiutano in situazioni di bisogno. Ciascuno dei rispondenti mi fa 1, 2, 3, 4, 5 nomi. Okay? Io ho generato, ho prodotto una lista di soggetti. Okay? Questo è il primo passo. Ho ego e attraverso il name generator produco una lista di alter con i quali ego è in relazione. Ok? Quindi ciascuno fa una certa quantità di nomi. Dopodiché posso avere l'interesse di sapere quali sono le caratteristiche di questi alter. Cioè, bene, ti aiutano 5 persone, ma sono maschi? Femmine? Qual è l'età di queste persone? Qual è il titolo di studio? Qual è il tipo di professione che svolgono? Per capire se c'è una somiglianza, per esempio, tra la condizione degli attributi del singolo e quella dei soggetti attorno a lui. Gli strumenti che si utilizzano per fare domande sull'altro si chiamano Name Interpreter. Ed è la seconda. I Name Interpreter servono a... Poi sono delle domande nel questionario, non sono delle cose strane, però è un modo per catalogare questo tipo di domande. I Name Interpreter possono servire a due cose: a sapere quali sono le caratteristiche degli alter. Cosa sta ascoltando? Non ho appunti, sono gli appunti. Avete comunque un armamentario, telefono, tablet. Questo che cos'è? È un registratore? Yes. Sì. Quello che cos'è lì? Il telefonino e il registratore. E qua c'è proprio mimetizzato la conferenza stampa. È mimetizzato. È molto mimetizzato. Qui dietro non c'è più niente, invece, telecamere, telefonini, niente. Poi invece qua passiamo alla redazione. Non l'avevo mai vista questa cosa qua. Sotto la maglietta, cioè. Sì, ma voi dovreste vedere da qua, perché fanno dei numeri sezionali con tutti questi monitor che compaiono. Esatto. Eccetera. Va bene, allora, i name interpreters sono le domande che noi facciamo sugli alter. Voglio sapere le persone che gli ha indicato che caratteristiche hanno. Per esempio, se possiamo sapere per ciascun ego qual è l'età media degli alter che lo aiutano. Possiamo sapere se lo aiutano soggetti che sono simili a lui per estrazione sociale oppure no. Possiamo sapere se i soggetti che lo aiutano fanno un certo mestiere oppure no. Domande sull'altra. La seconda cosa che sappiamo del mio interpreter sono delle informazioni sui legami che questi soggetti hanno con gli altri. Ho capito, questi ti aiutano bene. Quante volte li hai visti nel corso dell'ultima settimana? Che tipo di aiuto ti hanno dato? Quanto sei legato a loro? Vedete, io non sto aggiungendo altri soggetti, la lista dei nomi l'ho già prodotta, però aggiungo attributi sul legame che ego ha con queste 5 persone. Ok, chiaro l'esempio, oltre alle loro caratteristiche. Quindi diciamo che alla fine ottengo per il mio ego una lista di 5 nomi e ho tante informazioni sulle caratteristiche di ciascuno di questi altri, il sesso, l'età, la professione, il titolo di studio, eccetera, eccetera, e sulle caratteristiche dei legami che lo uniscono a Evo. È attivato molto frequentemente, è un legame che ha un certo tipo di intensità affettiva, emotiva, insomma, grazie a dei generator e a miei interpreter arrivo qui. Ok? E qui vedete un po' questa operazione nella prima matrice. Per ciascun ego io avrò una matrice che ha sulle righe tanti alter, quanti sono gli alter prodotti dal mio generator, nel nostro esempio sarebbero 5, e qui ho le variabili sugli altri, per esempio il sesso, maschio 1, femmina 2, l'età 28, 35, 71, eccetera. Quante volte si sono visti nel corso dell'ultimo mese? 5, 7, 8, insomma lì infilo tutte le caratteristiche che riguardano gli alter e il legame con gli alter. Perché questo è interessante? Perché poi io posso prendere queste caratteristiche e sintetizzarle all'interno di variabili che riguardano l'ego che ho intervistato. Quanti sono complessivamente i maschi? Oppure qual è l'incidenza percentuale dei maschi? Qual è l'età media dei soggetti che fanno parte della sua rete? Qual è la frequenza media delle interazioni tra loro? Eccetera, eccetera. Diventano caratteristiche di ego. Naturalmente però sono collegate alla sua rete. Quindi questo è il senso di questa prima matrice e del trasferimento dentro questa variabile, dentro questa seconda matrice, dove ci sono tutti gli ego, delle informazioni che riguardano gli alter. Ok? Bene, secondo voi che siete fini analisti strutturali, può bastare questo? C'è qualcosa di interessante che potremmo sapere? Faccio un esempio, noi potremmo trovare ego e ego 1 e ego 2 che hanno proprio una rete composta da persone uguali, 5 ego, 5 alter, ce li ha un ego, 5 alter, ce li ha l'altro, hanno legami simili dal punto di vista della quantità di attivazione, cioè di caratteristiche singole del legame, questi due sarebbero identici, cioè avremmo dentro questa matrice per ciascuna delle variabili considerate, quanti maschi, età media, eccetera, gli stessi valori. Ok? Vi pare che ci possiamo accontentare di quello che abbiamo visto per l'analisi strutturale? O manca qualcosa? Ricordate Kadushin, eh? L'esempio che vi invito a ricordare è quello del nesso tra densità delle relazioni, delle reti, scusatemi, densità delle reti e benessere psicofisico. Noi lo sappiamo qual è la densità di questa rete e di quest'altra. Che cosa ci manca per saperlo? Cosa potremmo disegnare ancora qua? E naturalmente per disegnarlo ci vogliono dei dati che ci consentono di disegnare questa informazione. E dei valori, un peso. Il peso c'è, li abbiamo già presi in considerazione, basta accoppiare ad ogni alter il peso del legame. E poi si fa la sintesi, si mette qua. Il segno? Uguale per il segno. Se ci sono legami tra gli alter. Bravissimo. Questa rete potrebbe essere così. Sì. E questa rete invece potrebbe essere così. Sono uguali questa rete? No. No, questa è densa e questa non lo è. Cioè densità. Le informazioni, esatto, la densità. Qui è molto alta per l'1, qui è molto bassa per l'0. Le informazioni sui legami tra gli altri. Solo queste informazioni ci consentono di passare dalla somma di diadi 1 più 2 più 3 più 4 più 5 alla struttura della rete. Queste informazioni si ottengono con l'ultimo strumento, quello che trovate lì, NIR, che è il Name Interrelator. Volete vedere un esempio di name interrelator? Subito. Allora, voi ottenete una lista di nomi tramite un name generator. Allora, poi torniamo qua, eh. Dopodiché chiedete al vostro, ai vostri intervistati di dirgli: bene, adesso per piacere voglio sapere, in base alla tua esperienza, se secondo te c'è un legame di conoscenza tra le persone che hai indicato. Questo potrebbe essere un esempio. Indichi, in base alla sua esperienza, ritiene che ci sia un legame di conoscenza tra le persone che lei ha indicato? Indichi per ogni coppia di individui con il numero 1 la presenza di un legame e con lo 0 l'assenza di legami. La invitiamo a riportare nell'ultima colonna i nomi dei soggetti che ha indicato. Allora qui abbiamo il nostro rispondente che dice: bene, le persone che ho indicato sono queste. Le copio, le ho già indicate precedentemente, no? 10 persone che mi aiutano in caso di bisogno. Allora, il primo che ho indicato è, scrivere quasi qui, è Paolo. Il secondo è Gino, poi abbiamo Piera, Claudio, Aureliano. Mi piace il nome Aureliano? No? Il nome è Claudio. Volevo dare questa informazione. È importante. Io ho mia moglie che il prossimo venerdì è a termine, gravidanza, e allora potrebbe, al prossimo venerdì, arrivarmi una telefonata, ecco, se dovesse capitare, poi vediamo come. Ma quindi si chiamerà Aureliano. Cavolo, è un nome importante. È un nome. Antico. Sì, l'ho scelto, diciamo, non è che il nome è tanto così capito, è un nome imperiale, però mia moglie lo ha, è un amore che era piccola, no, per questo nome, da credo che sia 100 anni di solitudine. Grazie a Max, dove c'è un personaggio che si chiama Aureliano Bonilla. E allora dove è rimasto questo, ecco, questo è venuto in mente. Così vi darò anche questa informazione, vediamo se questo inciderà su, magari su qualche lezione se devo portare in ospedale, spero di no. Poi abbiamo Antonio, abbiamo Riccardo. Samuele ti piace il tuo nome? Sì, tantissimo. Sì, è il nome del tuo figlio. Ma perché non esce questo nome? Come? Adesso è una comunità. Anche di una storta, no, un altro senso. Non nel senso che in genere i nomi li mettono lì. Le mettiamo. Sì, si può fare anche diversamente. No, pensavo che fosse costruita apposta così. L'importante è che se abbiamo allora questo legame qua, è un legame sempre reciproco di conoscenza, quindi è sufficiente la verità. Poi vedremo quando invece consideriamo la direzione, questo non è sufficiente. Allora io chiedo a, devo rispondere se Paolo e Gino si conoscono tra di loro. Sì. Paolo conosce Piera? Perché sto scrivendo qua? Perché uno è Paolo? No? No, no, e così via. Poi posso andare avanti. Gino conosce Piera, chiaramente non devo chiedermi se Gino conosce Paolo, ho già risposto a questa domanda prendendo in considerazione il legame a partire da Paolo, diciamo così, e vado avanti. E così via, fino all'analisi, adesso questo lo salviamo, così quando poi arriviamo all'analisi dei dati, lo inseriamo dentro e lo costruiamo. Numero 4 è Claudio con gli altri. E alla fine Margherita con Luigi, ed ecco qua. Posso andare così la prossima volta così. In questo modo io sono capace di tirare una linea tra i soggetti che si conoscono e quelli che invece non si conoscono resteranno tra di loro disconnessi. Cioè esattamente quello che è successo qua. Questi non si conoscono. questi si conoscono, posso tirare una linea, invece in questo caso non farò. Questa matrice ci consente di passare da un livello puramente aggregativo e individuale di analisi a un livello strutturale. Perché? Perché a partire da questa matrice poi io potrò raccogliere delle informazioni sulla rete, per esempio sulla densità, posso calcolare la densità di queste reti e naturalmente avrò una di queste matrici per ciascuno dei soggetti rispondenti. A questo punto ho ego all'interno e outer, e inserire questi valori sintetici all'interno della matrice, ma sono valori che riguardano la rete di ego. Domanda: perché secondo voi in questo caso c'è anche ego indicato all'interno della matrice? Quella che abbiamo appena visto, ego non c'era, c'era soltanto l'elenco dei soggetti a lui collegati. Quando è che possiamo fare a meno di inserire ego? Noi sappiamo che questi soggetti sono sicuramente collegati con ego, ok? Se studiamo un legame che è un legame personal network analysis. Sì, sì. Questo è personal network analysis, sì, sì, certo. Sì, sì. Se studiamo un legame che può soltanto esserci o no, non avrà senso considerare la relazione tra ego e alter anche nel verso opposto, cioè da alter a ego. Ok? Quindi in quel caso io potrò utilizzare per la raccolta dei dati una matrice tipo quella che abbiamo visto prima, che si riempie solo per metà e non ha la necessità di riportare ego in testa, ok? Ma se studiamo un legame di sostegno, noi sappiamo senz'altro che questi alter aiutano ego, però possiamo essere interessati a sapere se anche ego li aiuta, e quindi dobbiamo raccogliere le informazioni sulla presenza del legame da ego a alter. Questo è tipico dello studio delle relazioni di sostegno, eh? Noi chiediamo quali sono i soggetti che ti aiutano, bene, generiamo una lista di nomi, poi chiediamo al rispondente: ma tu li aiuti? Questa è un'altra informazione. Il legame di aiuto è un legame che può essere studiato come rispetto alla sua direzione. Non so se è chiaro. Sarebbe un multiplo personal analysis. Come se è un legame solo, non è una molteplicità. Ma nella metodologia in cui tu chiedi agli altri è come se ciascuno, cioè, si mette nella posizione di ego, esatto, a trasmettere, esatto. Cioè sarebbe un multiplo, per questo che ho detto multiplo, però personal, perché multiple. Diciamo che l'ego è in ognuno da loro, che devono, come dire, chiediamo a ego se questi soggetti non solo si conoscono, e là in quel caso non c'è necessità di studiare la relazione rispetto al verso, ma se si aiutano. Ed è chiaro che il fatto che alter 1 aiuti alter 2 non significa automaticamente che alter 2 aiuti alter 1. D'accordo? Allora voi generate... Ma non significa neanche che ego debba poi aiutare... Assolutamente, però ad esempio... la domanda è: se studiamo una relazione di interconoscenza, basta quello che abbiamo visto prima, ma se studiamo una relazione di aiuto, ok? Per cui chiediamo con la persona, io chiedo a voi quattro quali sono le vostre... l'elenco dei soggetti che vi aiutano in caso di necessità. Lei me ne dirà 4, lei me ne dirà 5, 7, 8, d'accordo? Bene, dopodiché io posso chiedervi, voi li aiutate in caso di necessità, questa è un'altra cosa, eh? È sempre il legame di aiuto, d'accordo? Però io passo da un ego considerato solo come ricevente di aiuto, a un ego che può anche reciprocare in qualche caso. Non è detto che ci sia reciprocità. Non è detto che ci sia reciprocità, non posso farla per scontata, d'accordo? È per questo che se utilizzo un name interrelator per legami che hanno anche la direzione, devo aggiungere ego. Perché qui senz'altro ho un 1, faccio l'esempio del legame di aiuto, alter aiuta ego, alter 2 aiuta ego, se no non avrebbe detto che questi fanno parte della sua rete di aiuto, d'accordo? Però io non so se ego aiuta altri due, eccetera. Alcuni possono ottenere una reciprocità e altri no. Allora, per tenere in considerazione tutta la complessità, devo raccogliere anche informazioni sui legami di aiuto in uscita dall'ego. E vediamo i legami tra gli alter. Alter 1 aiuta alter 2. Ma alter 2 aiuta alter 1, non lo so. Può essere 0-1, d'accordo? Non è detto che ci sia reciprocità rispetto a questa diagonale, d'accordo? Quindi l'esempio che trovate nel testo prevede questo perché è aperto a ogni possibilità di applicazione, anche quindi ai legami che hanno la direzione. Ciò detto, una volta creata questa matrice, che è una matrice di adiacenza, che è quella che poi infileremo nel software per l'analisi, noi creiamo le misure per ego e per la rete di ego, pigliamo queste misure e le aggiungiamo qui come variabili collegate relative alle caratteristiche delle reti amigdali. Per esempio, questa ricerca, noi abbiamo fatto due ricerche di questo tipo, grosse, una su un campione di Veronesi, che erano 307, il che ha significato avere un database con 307 casi e 307 database così, più 307 database così, da analizzare uno per uno con programmi diversi, prendere i dati e riportarli all'interno di questa matrice dei dati e incrociarli tra di loro, d'accordo? E poi l'abbiamo fatto per un campione nazionale su 1226 casi, il che ha significato avere un database con 1226 casi più 1226 database del primo tipo, 1226 database del secondo tipo, analizzati uno per uno, presi i dati e riportati all'interno del database nazionale. Quindi non si poteva fare un calcolo delle probabilità? Come? Un calcolo delle probabilità. Cioè? Nel senso che fatto un campione, poi fare un calcolo statistico delle probabilità che questo si replichi a livello più ampio. Ma questo era già un campione della popolazione italiana, di 1226 soggetti. Ma non era partito dai 300? No, allora, i 300 è una ricerca sui residenti a Verona, fatta qualche anno prima. Ok? La ricerca sui 1226 è stata fatta qualche anno dopo sui residenti d'Italia, ed era un campione nazionale. Ah, che non ho fatto... Partendo dai 300... No, sono due ricerche diverse. No, okay. La prima su un campione, che aveva un errore di campionamento del... credo che fosse del 5,6%. Invece la ricerca nazionale aveva un errore di campionamento fra il 2 e il 3, adesso non ricordo quale fu, che è proprio dovuto al fatto che abbiamo preso un campione per l'intero. Per esempio, questa ricerca qua nazionale, tra le altre cose che ci ha permesso di vedere, abbiamo avuto la possibilità di calcolare i livelli di densità delle reti nel mezzogiorno, del nord, eccetera, evidenziando delle differenze molto significative rispetto a questo. Insomma, abbiamo veramente potuto fare degli altri. Naturalmente ha richiesto un lavoro di sistematizzazione dei dati molto consistente. E questo tipo di strumento si chiama NAME Interrelator. D'accordo? Quindi ne abbiamo visti tutti e tre. E nella Full Network Analysis o Whole Network Analysis invece le cose sono più semplici. Noi abbiamo l'elenco degli ego, nell'esempio voi quattro, diciamo così, quindi quattro ego, le relazioni tra voi, tra il gruppo di soggetti che io, rispetto a quale identifico i confini, e poi naturalmente, oltre alle domande sulle relazioni reciproche che hanno tra loro, posso aggiungere alle persone delle domande su di loro. Cioè il sesso, l'età, titolo di studio, orientamento politico, fiducia nell'altro generalizzato, livello di reddito, eccetera, eccetera, eccetera. E incrociare le caratteristiche delle loro, diciamo, delle loro reti, della loro posizione all'interno della rete con gli esiti e le caratteristiche attributive che hanno. Nel testo, ma voi non dovete studiare l'esame, che l'unica parte diciamo dell'esame in cui trovate queste informazioni sono i due capitoli, voi trovate un capitolo che è l'utilizzo di questo approccio in un disegno di personal network analysis ed è la ricerca sul femminismo morale in Italia, un altro capitolo invece che presenta l'applicazione come full network analysis sempre sul campione, quindi un'indagine comunque campionaria sugli studenti. Naturalmente in quel caso avete delle classi di fronte di soggetti. È interessante sottolineare come queste modalità di organizzazione dei dati poi siano come di partenza appunto anche nell'applicazione della network analysis in ambito di emergenza, ok? Però prima di arrivare a quello, a vedere le applicazioni, è necessario che noi ci costruiamo un apparato metodologico, un apparato di competenze metodologiche per l'analisi delle reti sociali. Dopodiché, avete capito quali sono le differenze fondamentali, no? tra questi due filoni dell'organizzazione? I variabili, non ho capito molto bene nella variabile sono cosa possiamo mettere? Allora, le variabili possono essere di caratteristiche attributive di questa società. Per esempio, poniamo che fosse proprio due quattro, no? 1, 2, diamo la priorità alle donne. 1, 2, 3, 4. La prima variabile può essere il sesso. 1 maschio e 2 femmine, quindi io scrivo 2, 2, 1, 1. La seconda variabile può essere l'età, ok? Che nel caso delle donne è un valore mancante, perché non la chiediamo mai. Nel caso degli uomini invece la registro, sto scherzando naturalmente. La terza variabile può essere il titolo di studio, no? Qui abbiamo dei codici e li inseriamo. Poi possiamo avere delle variabili tipo il livello di centralità della rete che otteniamo grazie all'analisi di questa matrice, cioè la matrice delle relazioni tra di loro. Ego 1 ha un livello di centralità del 45%, e qui scriviamo 45%, ego 2 del 12%, qui scriviamo 12%, e così via. Ok? Cioè abbiamo delle caratteristiche che riguardano la posizione nella rete dei singoli. Naturalmente noi possiamo incrociare le caratteristiche attributive, le proprietà dei soggetti con le proprietà delle reti. Per quanto riguarda le proprietà, trovate nel testo un elenco di queste, le proprietà rispetto alle quali possiamo raccogliere delle informazioni sono proprietà, diciamo, individuali, per esempio il sesso. Il sesso è una proprietà che ha l'individuo, una sua caratteristica personale. Però diciamo possono esserci proprietà diverse da queste, per esempio proprietà aggregate. Se avete il testo lo trovate a pagina 53. In basso, pagina 53, proprietà individuali, poi nella parte successiva le proprietà aggregate, cioè attributi registrati su unità di raccolta di livello meno aggregato rispetto alle unità. Per esempio state studiando le relazioni tra i comuni e registrate all'interno l'età media dei residenti. Questa è una proprietà aggregata, si registra su diciamo unità di analisi più piccole e poi si aggrega questo valore e si riferisce a un soggetto più generale, o il contrario, proprietà contestuali. Quando si fanno per esempio delle ricerche su un campione si registra anche la popolazione della città di residenza, un piccolo comune, un grande comune, abiti in un'area metropolitana, un comune di campagna, eccetera. Cioè si trasferisce al singolo la proprietà che è il contesto nel quale risiede, oppure proprietà registrate su soggetti diversi rispetto a quelli che state intervistando. Se volete vedere la comunità sociale dovete registrare anche la classe sociale di appartenenza del padre o della madre, ma poi la riferite al soggetto come caratteristica della sua famiglia di origine, ok? Oppure proprietà comparative, attribuite una posizione, un attributo a un certo soggetto in base al rapporto che ha con gli altri, per esempio la posizione di una graduatoria, si può fare se studia la classe, ok? Insomma, qui potete mettere, ma questo è, diciamo, è un discorso generale che vale al di là della network analysis, sono le proprietà che noi possiamo riferire ai soggetti. Quello che è importante è unire a queste proprietà quelle che ritagliamo dall'analisi delle relazioni e che riferiamo ai singoli, ok? Bene, è tutto chiaro, ci sono domande. Naturalmente quando dovessero emergere delle domande le potete fare in qualsiasi momento, anche in mente, abbiamo già parlato di questo. Questa parte serve a preparare, diciamo, il campo rispetto a quello che dobbiamo, lo abbiamo salvato, e che possiamo fare utilizzando l'analisi delle reti sociali. Quindi, come vedete, riassumiamo un po', abbiamo visto degli approcci relazionali, abbiamo analizzato le caratteristiche di due ti approcci, alcune ricerche storiche, degli esempi applicativi. Abbiamo introdotto il tema dello studio, dell'analisi delle reti, quindi le qualità dei legami, che differenza c'è tra legame e relazione, eccetera, eccetera, che cos'è un gruppo, come si costituisce in termini strutturali. Abbiamo visto che cosa vuol dire studiare le relazioni attraverso i legami indicatori e quali sono i possibili scenari, diciamo così, generali per la sistematizzazione dei dati. Personal e full network analysis. Ok? Visto questo, prima di arrivare alla presentazione degli esempi applicativi in ambito dell'emergenza, dobbiamo imparare delle cose sulle misure di network analysis. E poi queste sono quelle che usiamo sul campo. Ok? Quindi torniamo nel percorso parallelo che possiamo fare sui testi di riferimento al volume di Chiesi e riprendiamo dal quarto capitolo. Identificati i passaggi da fare per compiere una ricerca e gli scenari personal o full network analysis che mi troverò di fronte alla fine, devo raccogliere i dati. Ok? È chiaro questo? Trovate un senso logico in quello che stiamo dicendo? Ci sono delle aree, diciamo, nebbiose, nebulose, che meriterebbero degli approfondimenti. Abbiamo capito teoricamente che cosa studiare, per esempio i legami di aiuto, perché è importante studiare le relazioni, non soltanto le caratteristiche degli individui, tutto il background teorico. Decidiamo di fare personal o full network analysis, dobbiamo raccogliere i dati. Abbiamo deciso quali sono i legami indicatori, abbiamo deciso come vogliamo sintetizzare dentro un concetto unitario di relazione, d'accordo? Abbiamo, la ricerca è già costruita, dobbiamo raccogliere i dati. Quindi vediamo le tecniche di raccolta e di organizzazione dei dati relazionali. Cosa succede sul campo? Quali sono le decisioni da prendere? E che legame c'è tra queste decisioni e gli esiti rispetto all'analisi dei dati? Ecco, nella network analysis, l'unità di rilevazione è il legame alla relazione. Volete fare una pausa? Io sì, dite voi. Sì, ci fermiamo 5 minuti, sì, va bene? Sì, 5 minuti. Bene. Prego.